la versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, 16:30 primi 17 secondi in diretta da Milano. Vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto in diretta in podcast. Oscar Giannino, vi ricordo l'indirizzo, la versione di Oscar @24.it, e a questo indirizzo che scrivono coloro che, come oggi, si candidano a dare la loro testimonianza nella nostra serie di puntate che ormai va avanti da molte settimane, dedicata a Italia non per giovani, in cui spiegare come e perché si sia preso la decisione o di andarsene per lavoro o per formazione, oppure anche di chi lo ha fatto e è tornato indietro, oppure di chi resta dicendo sono consapevole ma ci sono delle buone ragioni comunque per restare. E oggi abbiamo due nuovi testimoni esattamente per questa serie di trasmissioni. Ne approfitto per dirvi all'inizio, perché so che poi alla fine non ci sarà tempo, che comunque l'appuntamento poi per domani, come tutti i sabati dalle 10 alle 12 in diretta con me, caro Alberto Carnevale Maffè, Mario Seminiero e Renato Cifarelli, per i conti della Belva. E vi dico subito che domani ci occuperemo sia del tema dei voucher, quindi se volete intervenire in diretta chiamandoci all'800 24 00 24, a favore o contro la decisione assunta dal governo e la tesi che ha vinto su tutta la linea, cioè quella della CGIL di abrogarli, e parleremo domani anche di che cosa voglia dire dal punto di vista giuridico ed economico la tesi che avete visto dibattuta e con molte polemiche sui giornali in questi giorni, illustrata dai legali Beppe Grillo sul suo blog. E quindi la questione sarà chi risponde, ma non solo di quel blog, di tutti i blog. Domani tenteremo di fare una riflessione giuridica delle norme esistenti per fare chiarezza, perché è uno dei classici argomenti su cui c'è un'enorme confusione e la politica la alimenta, perché poi presenta disegni di legge che invece di sciogliere eventuali questioni giuridiche le moltiplicano, per così dire. E parleremo anche di Alitalia, ecco questi temi di cui parliamo domani mattina. Oggi invece iniziamo subito con c'è qualche ritardo nella telefonata, ma comunque il nostro primo ospite sarà Alessandro Cecconello. Alessandro Cecconello, che ci ha scritto attualmente lui sta svolgendo un dottorato in Israele. Eccoci qua, Alessandro Cecconello, grazie di averci scritto e grazie di essere con noi. Buon pomeriggio. Grazie a te, buon pomeriggio. Da Gerusalemme? Sì, in realtà vivo a Tel Aviv, però il dottorato è all'Università Ebraica di Gerusalemme. Allora, e stai lì da quanto tempo? Ormai 5 anni e mezzo, qualcosa di più. Ormai 5 anni e mezzo. Allora, iniziamo come fanno sempre i nostri ospiti, dicendo dove sei nato e come, dove ti sei formato. Allora, io sono nato nel 1982 a Padova. Ho ottenuto il diploma di liceo scientifico, sempre qui a Padova, e poi mi sono iscritto a biotecnologie industriali, sempre all'Università di Padova. Ho svolto la triennale, poi ho ottenuto, diciamo con un percorso un pochino travagliato, anche la successiva laurea specialistica, sempre in biotecnologie industriali. Al termine della specialista sono riuscito a trovare un lavoro quasi immediatamente in una piccola azienda che produceva biosensori per l'analisi dell'etanolo in diverse matrici, sia nel vino che nei succhi di frutta. E lì sono rimasto circa 2 anni. Circa 2 anni. Però la condizione non era, insomma, troppo incoraggiante per il futuro. Sì, era un'azienda abbastanza piccola. Diciamo che quasi subito, dopo pochi mesi, mi sono reso conto che l'idea mia, insomma, di ottenere magari non una lussureggiante carriera da scienziato, ma perlomeno uno statuto economico che andasse a migliorarsi nel tempo, cominciava a scricchiolare. E quindi ho cercato di, nel periodo in cui lavoravo lì, di trovare altre strade per cercare di migliorare il mio Anche perché tu dici, con quello che mi davano al mese e non avendo prospettive di chissà quali miglioramenti, facendo il paragone, perché tu avevi lavorato anche prima facendo la triennale e facevi il barista, dice, paragonando con anche col barista, mi sembrava insomma che non fosse una gran prospettiva. Sì, sì, no, in famiglia mia non sono mai stato, insomma, diciamo, molto ricco, per cui ho dovuto mantenermi durante gli studi anche facendo altro, poi insomma mi sono anche allontanato da casa per trovare un modo di vivere da solo. Ma però qui ti devo fare una prima domanda, perché è uscito proprio questa settimana il rapporto di Intesa relativo ai distretti italiani, e quello che ha colpito tutti i mezzi di informazione, il Corriere Repubblica e così via, era che nella graduatoria di Intesa sul valore aggiunto e sulla crescita, anche sul miglioramento dei risultati ottenuti sull'export 2016, ricordiamo tutti che abbiamo conseguito nel 2016 un record di surplus commerciale con 52 miliardi complessivi, ma insomma il primo tra tutti i distretti era esattamente il distretto del Prosecco, quindi stiamo parlando del settore enologico in Veneto. Allora tu dici, la situazione non era un granché interessante, eppure siamo in presenza di una specializzazione territoriale che consegue grandi risultati. Non c'è un po' una contraddizione in questo? Per quello che ho capito io in quegli anni, il punto è che quel tipo di tecnologia lì, cioè il sensore, è un sistema che in termini tecnici si chiama point of care, cioè è una tecnologia che serve a ottenere il risultato immediato in poco tempo e che può essere operato immediatamente da chi in realtà non ha alcuna preparazione tecnica. Per farti capire, il sistema è il test che viene venduto a Bayer per il glucosio ematico nelle farmacie. Quindi è in realtà un test che andrebbe fatto tipo in ospedale con dei macchinari estremamente sofisticati, con il personale estremamente preparato, ma in realtà può essere venduto come un kit da pochi euro e una persona si può fare da sola quando ne abbia necessità. Ora, quella cosa in realtà funziona per aziende estremamente piccole, perché l'azienda grossa che ha bisogno di fare test su enormi quantitativi, magari su una grande varietà di prodotti, non ha alcun problema a utilizzare una parte dei guadagni per investire in questo. Allora aspetta, dacci 30 secondi perché dobbiamo richiamare, perché la qualità del segnale comunque non è molto buona, quindi ti stiamo richiamando nel frattempo. E a questo punto, dopo aver preso la decisione, cari ascoltatori, di cercare altro rispetto alla piccola azienda del Padovano che produceva biosensori per la misura dei titoli di alcune sostanze e componenti nel vino e nei succhi di frutta, c'è una pausa successiva, nel senso che il nostro amico Alessandro a quel punto si guarda intorno e partecipa alla selezione per un corso concorso di agente di polizia locale. Naturalmente la cosa nasce l'occasione da un'amica con cui parla, eccetera, che partecipava anche lei, eccetera eccetera, e quindi dice, vabbè, ma se qui col mio titolo di studio non trovo niente di meglio, perché non diventare agente di polizia locale? È così, Alessandro? Sì, scusa, stavi raccontando che dopo l'aziendina ti è passato per la testa di fare insomma il vigile urbano, per così dire. Era un po' diverso dalla tua formazione. Io non voglio adesso stare qui a parlare esattamente dello stipendio che prendevo, però in effetti era come ho scritto, era una miseria, era una miseria a confronto di quello che prendevo prima. E quindi ho provato insomma altre strade, anche cose che non avevano assolutamente nulla a che vedere con la mia preparazione, diciamo, accademica. E in quel caso lì mi è capitato per caso di trovare questo corso concorso da centro di polizia locale che avrebbe stilato una lista per una serie di comuni, e quindi ho provato a fare anche quella cosa, e però alla fine, proprio nel momento in cui avrei dovuto ottenere il test finale, nel frattempo, mentre lavoravo nell'azienda e mentre partecipavo a questo corso concorso, ero anche in trattativa con una serie di professori per provare a fare un dottorato all'estero, quindi potessi insomma dare un miglioramento, diciamo, nello status di carriera. E quindi mi risponde questo professore a Gerusalemme, anche se posso utilizzare insomma una categoria volgare un pezzo grosso, e Tanker gli risponde che non c'è alcun problema, gli sarebbe potuto unirmi al suo gruppo quando... Oh, il problema è che questo, non c'è nessun problema a Gerusalemme, e a fronte invece di rimbalzi da parte delle università italiane, cioè non è che tu scegli Gerusalemme e vai, si materializza questa possibilità, ma nel frattempo in altre parti d'Italia la cosa non era possibile. Sì, avevo provato a partecipare a diversi altri concorsi per un posto di dottorato e addirittura sono preso un po' dallo sconforto, ho provato anche un concorso a Parma e lì addirittura il posto di dottorato sarebbe stato senza borsa. Il bando già partiva senza borsa, che vuol dire sono fasi di 4 anni, forse anche di più. Anche diverse ore al giorno, ogni giorno, senza alcuna gratis, cioè l'idea è che a quel punto si arriva a 30 anni con qualcuno che deve a quel punto mantenerti. Ecco, questo è, voglio dire, per capirci come funziona l'università italiana. Invece a Gerusalemme la cosa si attiva, ti corrispondono subito una borsa al mese, tu prendi la certificazione di inglese, il TOEFL che è richiesto naturalmente. E lì il dottorato quanto dura? Allora, il dottorato dura un minimo di 4 anni che è allungabile fino a 5. Poi in realtà c'è la possibilità di allungarlo di 6 mesi, e questo è il motivo per il quale io sono lì ormai da 6, perché in tutto si può allungare fino a 5 anni e mezzo, e in più c'è anche la scrittura della tesi, che ha un massimo di 4-5 mesi, che vuol dire che alla fine uno può anche stare lì 6 anni. E tu dici, lì ti danno le cose. La cosa particolare è questa è una grossa differenza rispetto ai dottorati, perlomeno che io conosco, sia in Italia che in Europa, è che ci sono una sorta di scatti di anzianità. Per cui ogni volta che c'è ci sono degli esami a scadenza, per cui dopo qualche mese, un anno, c'è la prima scadenza e da lì c'è uno scatto nella fellowship, nella borsa di studio. Nella borsa di studio. E lì aumenta, mi sembra, di un 20%. Poi verso la fine c'è un ulteriore scatto e poi uno successivo ancora, per cui alla fine, rispetto a quanto all'ammontare all'inizio della borsa di studio, adesso è quasi un 50%, quasi due volte tanto. Quindi adesso sei sui 2.500 euro al mese, mi hai scritto dicendo qui da subito, però a Gerusalemme sono stato caricato di responsabilità sia scientifiche, quindi progetti che mi hanno fatto pubblicare su Nature Communications, quindi su riviste scientifiche di primario livello mondiale, che amministrative, firmo ordine di migliaia di euro ogni settimana. E dopo elenchi quanto sono le pubblicazioni, riviste prestigiose, sono numerose, cari ascoltatori, studi in peer review, eccetera, eccetera, adesso sei in trattativa per un postdoc a Monaco. Sì, sono rimasto stupito, devo dire che deve essere stato poche settimane successive al mio arrivo. Io mi interesso particolarmente ad una direzione di ricerca e il professore mi dice: ah beh, se ti piace tanto questo filone di ricerca, allora io ti rendo responsabile dell'acquisto di tutti i materiali riguardanti questo filone di ricerca. E io mi sono ritrovato praticamente nel giro di pochi giorni a dover chiedere quotation e mandare ordini per decine di migliaia di euro, ma cose di cui questi sono consumabili, per cui sono cose di cui il laboratorio ha bisogno a scadenza di pochi mesi. E oltre a questo poi ci sono altri materiali collegati. Io sono rimasto piuttosto colpito da questa cosa rispetto a quello che succedeva nel laboratorio dove io ho fatto la tesi sia triennale che specialistica, dove ci sono delle persone che in realtà fanno questa cosa e fanno degli screening e ti chiedono: ma hai veramente bisogno di questo materiale? No, che è chiarissimo. La cosa, quindi ti andrai a Monaco? Devo dire che con il curriculum che ho, ma questo lo dico anche ai miei genitori, perché ogni tanto mi chiedono: ma andrai veramente a Monaco? E io gli rispondo: guarda, professore, non mi ricordo, anche perché è difficile che mi dicano di no. Faccio fatica a trovare concorrenti con il mio curriculum, però in questo momento sono alle prese con la ricerca di una borsa di studio internazionale. E quindi devi compiere quello. La tua sintesi è: ho perso... Volevi chiedermi se voglio andare a Monaco, se voglio tornare in Italia, io tornerei volentieri in Italia. Se posso fare una piccola critica di ampio spettro, credo due o tre anni fa è uscita la legge per il rientro dei cervelli in Italia, che è collegata alla borsa di studio Montalcini. Sì. E che mi è stata suggerita, tra l'altro, anche dal mio professore qualche mese fa. Sì. Io sono andato a vedere cosa, esattamente come funziona. E quella è una borsa di studio che viene assegnata soltanto a persone che hanno già ottenuto un dottorato e che stanno svolgendo un postdoc all'estero da almeno tre anni. E se posso permettermi, a me sembra un sistema che non è estremamente efficiente per selezionare scienziati, perché quale tipo di capacità uno scienziato o un qualsiasi lavoratore insomma accademico può aver accumulato durante un postdoc, che è in realtà un periodo in cui uno semplicemente tenta di pubblicare quanto più esatto, può. Esatto. Mentre nella fase precedente l'accademico si forma e in realtà mette insieme sia una serie di conoscenze accumulate che una serie di contatti per riuscire a formulare da sé certe direzioni di ricerca. Per cui, non so, sono rimasto un po' perplesso. Quindi mi pare di poter concludere dicendo che la vedi improbabile tornare in Italia ormai col tuo curriculum. La vedo abbastanza improbabile, però a me piacerebbe tornare. No, a te piacerebbe tornare, quindi il problema è come siamo organizzati noi, per così dire. Io vi ho risparmiato tutti i dettagli personali, cari ascoltatori, perché voglio solo dirvi una cosa. Da quando sono arrivato, leggo, ho perso un certo numero di chili. Qui si lavora 10-12 ore al giorno, con l'autobus che prendo ogni giorno per andare e tornare, significa dormire 4-5 ore a notte. Allora, io posso solo dire ad Alessandro che secondo me ha fatto benissimo, è caduta la linea, suo malgrado, se ci sta ascoltando, e che come vedete, cari ascoltatori, che scommettendo molto su se stessi, lavorando eccetera eccetera, lavorando come bestie, tuttavia nel suo caso la passione, cioè la biologia molecolare, gli è valso un curriculum fuori dall'Italia che rispetto all'università italiana sarebbe stato un no grazie, non ti possiamo far perfezionare. Traffico! Faircam Transport, puntuale ed efficiente nel rispetto dell'ambiente. Scopri di più su faircam.com. Vi presenta. La versione di Oscar. Eccoci qui tornati in diretta e dopo aver ascoltato, e lo ringrazio ancora, Alessandro Cecconello che sta alla Hebrew University di Gerusalemme, veniamo a un altro ascoltatore, Roberto Albarella. Buon pomeriggio e grazie. Buon pomeriggio Oscar e grazie dell'invito. Allora, da dove stiamo parlando? Tu da dove sei mentre mi parli? Io mi trovo a Londra e al momento effettivamente mi trovo in ufficio in pratica. Ho capito. Allora, tu sei laureato in giurisprudenza in Italia a Napoli, hai scritto? Sì, mi sono laureato a Napoli, anche se io sono nato e poi cresciuto a Portici, che è in provincia di Napoli, sì, sì, in pratica. Chiarissimo. Sì. Dopodiché hai fatto un master? Sì, dopodiché per completare un po', diciamo, il profilo e renderlo più appetibile per le aziende, mi sono iscritto in un master sempre nella provincia di Napoli in direzione gestione di imprese. Cioè, ma ti era chiaro fin dall'inizio della scelta di giurisprudenza che non avevi nessuna chance senza avvocati in famiglia di fare l'avvocato oppure no? Purtroppo è un qualche cosa che poi ho capito durante dopo. Il corso di studi. No, sì. Ecco, perché io mi augurerei come contributo all'orientamento che il sistema pubblico non sì, fa molto, sì. Lo dico sempre alle famiglie e ai giovani che ci ascoltano, dovete pensarci prima a vedere prima. Quali sono le domande effettivamente nel mercato del lavoro italiano, sicuramente quello di fare avvocato o siete in condizione di poter avere un reddito fino a quando la finite di fare i giovani di studio, ne abbiamo già parlato con molte esperienze che abbiamo proposto. Ho sentito. Ecco, detto questo, altrimenti. Allora vai a fare questo master e a quel punto, insomma. Il master, diciamo, mi permette poi di entrare nel mondo delle aziende e da lì che ho avuto l'opportunità di entrare in una piccola azienda di un grosso gruppo della grande distribuzione attivo in Italia. E devo dire la verità, l'esperienza lì mi è piaciuta molto a Milano. è stata un'esperienza per me molto Senti, formativa. Senti, ma tu ti occupavi di valutazione del merito creditizio e solvibilità delle aziende, delle società fornitrici del gruppo. Domanda, a quel punto era una lacuna aver fatto giurisprudenza invece che economia e finanza oppure no? No, è stata d'aiuto, sono stati d'aiuto entrambi i miei percorsi di studio, è stato d'aiuto sia a giurisprudenza, è stato d'aiuto sia al master. Ovviamente per l'aspetto di valutazione del merito creditizio mi è stato d'aiuto il master, anzi, senza del quale non avrei potuto proprio accedere al lavoro. Mentre il corso di studio in giurisprudenza mi ha aiutato molto sull'aspetto amministrativo di gestione dei fornitori Ma che contratti avevi? E purtroppo è il problema. Ho avuto un paio di rinnovi come stagista e poi ho avuto due riconferme con un contratto a tempo determinato. Il che però poi purtroppo allo scadere del secondo contratto a tempo determinato Fine. Si trattava o dentro o fuori sostanzialmente, e purtroppo le condizioni al momento non permettevano un mio inserimento a tempo determinato. Quindi fuori. E a quel punto si è rivelata un po' complicata la direi molto. Sì, direi molto complicata perché... Purtroppo ho fatto numerosissimi colloqui in giro per tutta l'Italia, quindi insomma ero abbastanza flessibile dal punto di vista di dislocarmi in altre aree geografiche d'Italia. Non Però la risposta era no grazie. Spesso era no grazie, le faremo sapere. Ti dirò la verità, Oscar, purtroppo in alcuni colloqui mi sembravano proprio alcune delle perdite di tempo. Fittizie e formali, insomma, perché c'era già chi doveva essere. Esattamente. Solito problema italiano. Esattamente. Per altri mi facevano notare l'età che all'epoca era per loro, come dire, avanzata. Troppo avanzata. Anche se avevo poco più di 30 anni. Avevo lavorato. Un begliardo. E comunque avevo lavorato fino a quel periodo. Comunque è confortante sapere che in un paese con la montagna che ha di 360 miliardi di crediti incagliati, il merito di credito è complicato trovare, perché dovrebbe essere l'attività quella della valutazione di tutti i fattori di rischio di un'impresa, di cui uno è quello finanziario e l'altro quello della solvibilità nella catena a cui si appartiene, eccetera eccetera, dovrebbe essere una delle attività in cui ci dovrebbe essere stato un boost, e invece la tua esperienza negativa. A quel punto decidi, cioè, beh, è inutile che faccio, vado a Londra. Esattamente, sì, perché comunque durante i miei colloqui, questa era una mia pecca, una mia lacuna, l'inglese purtroppo non era fluente. No, e quindi vai a Londra per imparare l'inglese. Sì, andai a Londra per imparare l'inglese. Se non che lì in pochi mesi trovi lavoro. Entro 4 mesi ho trovato lavoro come commesso, però nel nord dell'Inghilterra, non a Londra, a York, esattamente, che è una città bellissima. E quindi ho fatto il commesso lì per una catena, per un discounter. Frattempo studiavi accountancy. Sì, ho studiato accountancy e ho finito pochi giorni fa, la settimana scorsa ho fatto il mio ultimo esame, e quindi dovrei aver completato la certificazione, mi manca l'ultimo risultato sostanzialmente, e la qualificazione si chiama EET ed è molto molto bene, diciamo, ricercata da parte dei datori di lavoro qui in Inghilterra. Quindi sì, all'epoca lavoravo e studiavo, ma anche adesso in pratica lavoro e studio ancora sostanzialmente. Niente, la cosa che mi premeva molto di dire è che si è offerta spesso anche l'opportunità di un supporto allo studio da parte del datore di lavoro, che io ho anche ricevuto, che questo secondo me è un messaggio di speranza anche per ragazzi che semmai partono da un background un po' più svantaggiato, una situazione economica un po' più difficile, comunque ci sono sempre... Perché nel frattempo poi non lavori, non fai più commesso, sei in una compagnia di IT. Esattamente, ho lavorato in una compagnia IT lì a York, poi riuscì a cambiare dopo che avevo fatto il commesso. E oggi sei in un'altra compagnia. Sì, in una società di abbigliamento, un designer, un retailer di abbigliamento, e mi occupo però sempre nell'ufficio finance di fatturazione passiva, credo venga chiamata in Italia. Ma ci sei di nuovo come stagista a tempo? Che tipo di contratto? No, sono a tempo indeterminato, che qui viene chiamato permanent. Il supporto allo studio mi è stato detto che, a voce ovviamente, però mi è stato detto che sarà provvisto se nell'ipotesi voglio continuare i miei studi l'anno prossimo. Pagano loro. Altre pagano loro. Allora, la domanda è, come vedete, la comparazione della prima e della seconda parte dell'esperienza professionale e formativa del nostro Roberto, UK vince ai punti. Secco, hai paura della Brexit? Ho avuto molta paura all'inizio, ogni tanto ancora mi dà qualche pensiero. Ma, però speri che sia che... più adattativa. E vorresti sì. tornare? Al momento no, non è contemplata. Non è contemplata. E io ti dico, Roberto, i miei migliori auguri. Purtroppo le performance ottenute parlano da sole. Cioè, non è che Roberto ce l'ha con l'Italia, è un po' l'Italia che ce l'ha con Roberto e con tanti Roberti. E questo amaramente è la conferma.